Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. L'Italia, soprattutto adesso, ha bisogno degli esploratori e dei visionari che l'hanno resa famosa negli altri secoli. E noi dobbiamo prenderci questa responsabilità per riuscire a riportare veramente l'Italia ai numeri uno al mondo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Esploratori e visionari cercasi per rinnovare l'Italia e renderla un paese per giovani. Le parole di Daniele Alberti, amministratore delegato della giovane startup web Winswear, ci arrivano direttamente dalla baia di San Francisco, dove Daniele, insieme a due compagni di avventura, è emigrato. Oggi, a proposito di esploratori, apriamo una nuova pagina nella nostra indagine sui giovani professionisti che lasciano il bel paese. Andiamo noi stessi ad esplorare un settore ancora inedito, quello delle professioni legate al mondo della diplomazia e delle organizzazioni internazionali. Lo facciamo trasferendoci in Libano, dove ci aspetta, per raccontarci la sua storia, una giovane professionista al lavoro in uno dei maggiori think tank mondiali. Con lei cercheremo di capire quanti under 40 italiani abbiano dovuto compiere il suo stesso percorso di internazionalizzazione, senza usufruire di alcun supporto da parte della madrepatria, trovandosi dimenticati all'estero. Qualcosa che ha portato a un paradosso sotto gli occhi di tutti. Grandissime professionalità made in Italy nelle organizzazioni internazionali e qui? Beh, qui lasciamo perdere. Non so a chi do fastidio, non so neanche se devo pensare che c'è qualcun altro che occupa il mio posto. Quello che so è che tutte le volte che ho cercato appunto una possibilità di tornare, ho sempre trovato una porta chiusa. Maria Fantappi è 27 anni e visiting scholar al Carnegie Middle East Center di Beirut. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio a notiziario. I salari d'ingresso nel mercato del lavoro sono in termini reali su livelli pari a quelli di alcuni decenni fa, lo afferma il governatore di Banca Italia Visco, secondo cui i giovani che si affacciano sul mercato dell'impiego sembrano esclusi dai benefici della crescita del reddito occorsa negli ultimi decenni. Per Visco è importante l'aumento della dotazione di capitale umano del nostro paese. L'Italia è in grave ritardo rispetto ai principali paesi avanzati, sia nei tassi di scolarità e di istruzione universitaria, sia nel livello di competenze. L'Italia è un paese che ancora promuove troppo per anzianità e troppo poco per merito, ha aggiunto Visco in una successiva intervista. Sui salari dei giovani arriva la conferma della CGIL, gli stipendi d'ingresso sono al palo da un decennio, per un neolaureato non superano i 1000 euro al mese, negli ultimi 8 anni l'incremento per un neodottore è stato di soli 23 euro. Dei circa 6 milioni di under 35 che risultano occupati, quasi 3 su 10 sono precari, lo afferma Data Giovani sulla base dei dati del primo semestre 2011. Gli under 35 rappresentano il 43% del precariato, più di 1,5 milioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato o part-time che non hanno potuto scegliere una diversa forma contrattuale, nonché collaboratori e partite IVA che lavorano come dipendenti. La crisi sta avendo in Europa un forte impatto sociale, preoccupa soprattutto la disoccupazione giovanile così elevata, uno spreco enorme di talenti che l'Europa non può permettersi, così il vicepresidente della Commissione Olli Rehn. Se fossi un giovane italiano o spagnolo, ha aggiunto Rehn, mi chiederei perché da noi la disoccupazione è così alta rispetto ad Austria o Olanda. Per Bruxelles la legislazione italiana sul lavoro continua a offrire elevata protezione a chi è dentro, mentre a chi è fuori, soprattutto donne e giovani, restano impieghi precari e nessun sussidio. E secondo Eurostat le regioni italiane fanno molto male rispetto alla media europea in termini di disoccupazione giovanile. I dati peggiori in Basilicata col 42% di giovani disoccupati, seguita da Campania e Sicilia, Isola Felice e la provincia di Trento col 15,1%. Ricordiamo che per l'Istat la disoccupazione giovanile a ottobre si attestava al 29,2%. Il 52% dei professionisti italiani è pronto a ricollocarsi in Europa e negli Stati Uniti per continuare a seguire la propria carriera, lo afferma Ariel Eckstein, amministratore delegato Europa di LinkedIn. Ogni anno l'Italia perde oltre 1 miliardo di euro di ricchezza generato dai 243 brevetti che i nostri migliori 50 cervelli producono all'estero, un valore che proiettato su 20 anni tocca quota 3 miliardi di euro. È il costo della fuga dei cervelli, calcolato dalla Fondazione Lilly e dall'Istituto per la Competitività. È stato intanto annunciato il piano europeo Horizon 2020 per la ricerca, tra gli obiettivi favorire i giovani ricercatori. Per il vicepresidente della Commissione Tajani, l'Europa deve cominciare a investire massicciamente sulla ricerca applicata all'industria. Il non averlo fatto, secondo Tajani, ha provocato la fuga di cervelli dall'Italia. I grandi gruppi europei non investono abbastanza in ricerca e sviluppo industriale, quelli italiani sono agli ultimi posti, lo sostiene la graduatoria 2011 degli investimenti nel settore presentata dalla Commissione. Nessuno dei nostri grandi gruppi industriali è tra i primi 50 della classifica mondiale, solo 11 aziende del bel paese sono nella classifica Innovation 1000 delle imprese che più investono in ricerca e sviluppo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, oggi vi segnaliamo. Un esperto ambientale ad Energy Community, sede di Vienna, scadenza per il CV 31 dicembre, info su energy-community.org. Netaffiliation ricerca un account manager per lo sviluppo del mercato italiano a Parigi, curriculum e lettera di motivazione a stefano-recruitment@netaffiliation.com. E infine il Max Planck Institute di Garching in Germania offre una staff position in astrofisica, scadenza per CV 15 dicembre, info su mpe.mpg.de. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Libano, terra dei cedri, per un'altra bellissima quanto amara storia di espatrio. Nome: Maria. Cognome: Fantappie. Età: 27. Città di origine: Prato. Studi: Scienze politiche e studi internazionali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Parigi. Perché? Master in studi sul Medio Oriente. Quale lavoro svolge attualmente? Ricercatrice al Carnegie Middle East Center. Dove? Libano, Beirut. Tornerai? Forse. Un po' di pop libanese per iniziare il racconto della tua storia, Maria. Nel 2005 presi un treno per Parigi dalla stazione di Firenze. Anche mio padre aveva fatto lo stesso nel 1979, quando con una borsa di studio del Ministero degli Esteri aveva completato gli studi post-dottorali nella capitale francese per tornare in Italia a fare il ricercatore successivamente. 30 anni dopo partii anch'io, ma il ritorno oggi sembra più difficile. Maria, in questa lettera a giovanitalenti@radio24.it segni uno stacco temporale molto netto tra due generazioni, quella dei nostri genitori che hanno vissuto nell'Italia dell'opportunità e la vostra, dove quelle opportunità sembrano essere svanite. Allora, cosa è successo in mezzo? Cosa ci ha ridotti in questo stato, privando voi giovani di una speranza di futuro? I miei genitori, a differenza della mia generazione, hanno potuto pensare un futuro in Italia. Invece io, per esempio, io e mia sorella, appena finita l'università, abbiamo immediatamente fatto le valigie e siamo partite per l'estero. Partiamo come sempre dalla tua storia. Dopo il liceo ti iscrivi alla laurea triennale in scienze politiche a Firenze. Perché questa scelta è orientata fin da subito verso il tuo futuro campo di lavoro? Quando ero sul treno Prato-Firenze per iscrivermi all'università di scienze politiche, ho pensato: voglio lasciare una traccia in questo mondo, voglio cambiare qualcosa, e ho pensato che le scienze politiche e la sociologia potessero essere utili. E quale giudizio dai della tua esperienza universitaria? Da un certo punto di vista molto buona, nozioni molto forti, una preparazione molto buona, però una formazione che è un po' orientata verso la ripetizione, dove lo studente non è incitato a creare, a scrivere sin dall'inizio. Poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Finita la laurea triennale, la casa di studenti e colleghi si sgretolò. Martino è volato a Londra, Mirko a Bruxelles, Michela a Barcellona, Tina a New York e anche mia sorella Irene è partita per Berlino, dove ora insegna all'università. Maria, sembra un brano da film, ma è tutto vero. Parliamo di fuga dall'Italia o goodbye malinconia, per dirla con caparezza, per mancanza di opportunità concrete e appetibili, oppure si tratta di una naturale uscita legata alla crescita professionale? Tutte e due, devo dire, perché tutti eravamo comunque orientati a una carriera professionale all'estero, però è vero che a un certo punto, quando abbiamo finito la nostra esperienza in tutti questi posti, poi ci siamo anche restati perché non c'era nessuna possibilità di tornare indietro. Tu ti iscrivi a un master specializzandoti in studi sul Medio Oriente presso uno degli atenei più importanti di Parigi, Sciences Po. Perché questo passo così deciso, e soprattutto qual è stato l'impatto e il salto qualitativo con il sistema di studi francese? La decisione è stata presa quando a un certo punto ero in ricevimento con la mia professoressa a Firenze e l'ho vista stanca, sì, che ho detto: devo prendere un treno e devo partire. Il salto qualitativo c'è stato. L'università francese è un'università che si incita a scrivere, a preparare un discorso, a organizzare conferenze sin dall'inizio, a differenza di quella italiana, però tante volte anche molto più povera in termini di nozioni. La tua storia ci dà l'occasione per aprire uno spaccato sulla vita dei nostri giovani all'estero, molto lontano dagli stereotipi dei figli di papà viziati. Ci racconti quanto è stata dura a Parigi? La vita di tutti gli studenti è dura a Parigi, sicuramente è anche molto più dura se non hai una borsa di studio, come era il caso di tutti gli studenti italiani. Abbiamo vissuto in condizioni abbastanza difficili. Vivevi in 18 metri quadrati? Sì, per 4 mesi con una collega italiana abbiamo vissuto in un garage per riuscire a risparmiare un po' di soldi. È stata durissima. Lo Stato francese vi forniva aiuti sociali, e l'Italia invece? Lo Stato francese forniva aiuti sociali, sì, dall'Italia non ho ricevuto nulla se non la borsa Erasmus. A Parigi è cominciata anche la tua personale formazione sul campo, i viaggi estivi in Siria, la tesi di ricerca sull'Iraq del dopo Saddam Hussein. Allora, portaci su questi fronti caldi della politica medio orientale. Nel 2005 sono partita per la Siria. Siria per il primo soggiorno per studiare arabo all'Università di Damasco e poi appunto sono partita anche per l'Iraq per fare il terreno di ricerca appunto nel Kurdistan iracheno e anche a Baghdad. Queste esperienze mi hanno fatto crescere dal punto di vista professionale perché ho potuto imparare non solo la lingua, l'arabo, ma anche il modo di vita quotidiano di queste persone che vivono lì, anche al di là degli stereotipi. Il che, se mi permetti, a 20 anni non è poco, poco più che 20 anni non è poco, Maria. E tu non ti fermi qui, nel 2010, conclusa la tesi di ricerca a Parigi, vieni ammessa a un dottorato al King's College di Londra, Department of War Studies. Come si approda oltre Manica? Con quali criteri selettivi? Criteri selettivi difficilissimi. Sono stata ammessa semplicemente avendo inviato un'email attraverso, diciamo, il mio dossier, quindi non ho avuto nessuna relazione personale con nessuno che mi ha fatto entrare al King's College, ma la mia... Mi piace la sottolineatura. Ricordiamo anche che prima di optare per un dottorato a Londra avevi considerato una carriera analoga in Italia, scelta improponibile, perché? Perché se non conosci queste persone, sono quelle che devono decidere chi avrà il dottorato, probabilmente il dottorato non l'avrai. 3 anni fa era così. Maria, i tuoi genitori però ti avevano avvisato, se lasci l'Italia sarà difficile tornare, però io continuo a non capire, tu parli 4 lingue, tra cui l'arabo, ti sei specializzata in centri di eccellenza europei, hai una visione assolutamente internazionale degli affari esteri, allora a chi dai fastidio se torni? Non so a chi do fastidio, non so neanche se devo pensare che c'è qualcun altro che occupa il mio posto, quello che so è che tutte le volte che ho cercato appunto una possibilità di tornare ho sempre trovato una porta chiusa. Ma in Francia e Gran Bretagna funziona così? Non so, in Gran Bretagna sicuramente, in Francia no, ci sono delle agevolazioni molto forti soprattutto per queste persone che fanno queste scuole d'eccellenza per poi riuscire a avere impieghi al corrispettivo della Farnesina, al Ministero degli Affari Esteri e tutto l'apparato statale. Da quasi un anno sei visiting scholar a Beirut appunto per il prestigioso Carnegie Middle East Center. In due parole, di cosa ti occupi? Il Carnegie Middle East Center è un think tank, è un'antenna del centro più grande che è a Washington, che si chiama Carnegie Endowment for International Peace, e si occupa appunto di pubblicare delle ricerche di analisi sul Medio Oriente. L'obiettivo principale è quello di riuscire a indirizzare la politica estera e soprattutto anche di dare un'informazione più accurata al grande pubblico. Ha neppure 30 anni, scrivi papers che finiscono nei dossier di ricercatori, unità diplomatiche, ONG, investitori internazionali, hai scritto articoli per il Los Angeles Times, hai avuto ruoli di consulenza per ONU e World Bank, ma l'Italia è lontana. Tra l'altro, un giorno alla Farnesina ti sei presentata per offrire la tua professionalità e qual è stata la risposta? Ho trovato, diciamo, un'accoglienza gentile, questo sì, devo dire, però purtroppo poi non c'è stato nessuno sviluppo futuro, nel senso che ho avuto dei contatti e poi però non mi hanno portato, diciamo, a nessuna possibilità. Il ritorno in Italia per me appare lontano, scrivi a giovanitalenti@radio24.it, dopo aver scartato pure il mondo accademico e della ricerca. Strade chiuse e ingessate su modelli standardizzati, definisci le possibili vie del ritorno, sprangate ai nostri talenti all'estero. Allora, cosa c'è dietro questa bella metafora? Quale Italia arretrata e purtroppo fuori dalla globalizzazione? La stampa italiana e l'Italia in genere finisce poi per essere provinciale, tutta incentrata poi su personaggi politici e informa pochissimo su quello che accade sul mondo. Anche la nostra politica estera da anni è, diciamo, molto poco propulsiva, si ha quasi la sensazione che l'Italia sia un paese chiuso su se stesso. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Questo concentrarsi troppo su queste personalità senza vedere appunto proprio quello che succede intorno a noi, quello che succede intorno a noi tante volte anche da esempio, per esempio appunto quello che sta succedendo nella regione dove sono, la primavera araba, dove giovani della mia età scendono per la strada e vogliono cambiare il loro paese. Da un certo punto di vista vorrei anche che noi giovani italiani facessimo, probabilmente non possiamo fare lo stesso e non dobbiamo fare lo stesso, però avere questa voglia di rinunciare a qualcosa di se stessi per portare un cambiamento al paese. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Maria Fantappia, 27 anni, visiting scholar al Carnegie Middle East Center di Beirut. Maria vi approda dopo una laurea triennale in scienze politiche a Firenze, qui segue una specialistica al prestigioso Ateneo di Sciences Po a Parigi. Le ricerche e i periodi di formazione la portano in quegli anni in Siria, mentre per la tesi di ricerca sceglie l'Iraq del post Saddam Hussein. Lo scorso anno Maria approda oltre Manica, dove avvia un dottorato al King's College di Londra, ma la sua fame di conoscenza del mondo e delle complesse trame diplomatiche sottostanti non la tiene ferma in Europa. Da quasi un anno lavora a Beirut. E per il futuro chissà, difficilmente però teme sarà in Italia, dove gli sbocchi nei settori che predilige appaiono chiusi ed ostruiti. Da chi e perché? Viene da chiedersi. Ci raggiunge ora in linea Cristina Caputo, funzionaria della Direzione Generale per le Risorse Umane al Ministero degli Esteri. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dottoressa Caputo, lei ha ascoltato la storia di Maria. Iniziamo con un commento personale. Non le ha lasciato un retrogusto un po' amaro vedere tanto spreco di capitale umano iperqualificato, del quale l'Italia ha tanto bisogno anche ora? Beh, assolutamente. assolutamente sì. Io prima di tutto vorrei complimentarmi con Maria e peraltro mi sento molto vicina a lei perché la sua storia è stata fino all'anno scorso la mia sostanzialmente, perché anch'io dopo la laurea sono dovuta partire perché non c'erano degli sbocchi sostanzialmente in Sicilia, io sono di Palermo, quindi sono partita immediatamente con varie esperienze all'estero e sono ritornata soltanto nel 2010, quindi dopo 7 anni. Però in realtà alla base c'è una voglia di ritornare nel proprio paese, di mettersi in discussione e di gareggiare con gli altri per quelle che sono le poche opportunità. Purtroppo poche. E su questo volevo chiederle, la Farnesina ha dei canali attivi per il reclutamento di giovani che aspirano a una carriera internazionale? Partiamo da quelli diretti. Come si viene assunti dalla diplomazia italiana? Ci sono dei concorsi pubblici che permettono l'accesso all'impiego, ci sono delle prove preselettive, prove scritte, prove orali e si accede naturalmente così sia alla carriera diplomatica che alla carriera dirigenziale che a tutti gli altri profili. Naturalmente i canali diretti vengono ad essere pubblicizzati con tutta una serie di modalità sulla Gazzetta Ufficiale e quant'altro. Il Ministero degli Affari Esteri è uno dei pochi ministeri che continua a fare concorsi anche in questo periodo di crisi. Quanti sono i posti più o meno? I posti sono 35. Chiaramente sono, come dire, è un imbuto da cui passano poche professionalità, ovviamente per esigenze, però ci sono anche posti indiretti, cioè attraverso la Farnesina si può venire indirizzati a lavori molto qualificati in istituzioni o in organismi internazionali, no? Esattamente. Come funziona? L'obiettivo del Ministero degli Affari Esteri è proprio quello di divulgare le opportunità presso le organizzazioni internazionali e incoraggiare le candidature italiane. Lo facciamo tramite un portale delle organizzazioni internazionali ai quali molti esperti si iscrivono. È necessario avere un requisito minimo di almeno 2 anni di esperienza presso organizzazioni internazionali. Non entriamo nel merito delle selezioni degli organismi internazionali, però se si tratta di candidature particolarmente qualificate il Ministero le sostiene. Qual è l'indirizzo del portale? www.esteri.it nella sezione opportunità. Maria, hai una domanda per Cristina Caputo? La Farnesina potrebbe, secondo lei, aprire appunto o comunque dare supporto a un centro di ricerca che in qualche modo aiuti anche la politica estera italiana a avere, diciamo, un impatto più grande anche a livello europeo e a livello internazionale? In realtà ci sono pochi purtroppo, c'è per esempio lo IAI, l'ISPI a Milano, insomma sono dei think tank anche abbastanza insomma conosciuti, però sono pochi effettivamente a confronto con le altre realtà europee. Ma anche un ecosistema, giusto, che possa dare opportunità professionali, che graviti intorno, diciamo, alla nostra politica estera, anche non direttamente supportato dalla nostra politica estera, però dia opportunità professionali ai tantissimi giovani che veramente hanno... Sì, assolutamente. Io, guardi, l'unico appunto consiglio che potrei dare a Maria, più si sta all'estero ad ogni modo, più difficile poi è il ritorno in Italia, quindi... È un paradosso però. È un paradosso, sì. Naturalmente io lo considero comunque, la mia esperienza all'estero la consideravo come un'uscita per una crescita professionale. Il mio obiettivo era comunque il rientro in Italia, quindi il mio auspicio è naturalmente è l'auspicio di tutti, perché in realtà non potrebbe che avvantaggiare il sistema Italia il ritorno di queste persone, di questi studenti, di questi ragazzi assolutamente meritevoli, di impegnarsi appunto a rientrare in Italia e a trovare i canali giusti. Grazie a Cristina Caputo e domanda diritto per Maria Fantappi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando a un espatrio? Prendere il meglio dell'Italia, prendere il meglio di quello che l'Italia ti ha insegnato, quello che hai visto in Italia, e se non c'è veramente possibilità di far fiorire i tuoi sogni in Italia, prendi un treno e parti. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova immigrazione. Oggi seconda tappa della nostra inchiesta in 10 parole sui motivi che spingono centinaia di migliaia di giovani professionisti a lasciare l'Italia. La parola d'ordine è salario basso, maledettamente basso in Italia. Eleonora Voltolina, direttrice del sito La Repubblica degli Stagisti. Sicuramente la prospettiva per chi smette di studiare, si completa l'università o gli studi secondari e si affaccia al mondo del lavoro non sono affatto buone. Non ci sono dati precisi al riguardo, si può parlare dell'intorno ai 1000 euro al mese che rileva Alma Laurea nel suo rapporto annuale. Poi però si guardano per esempio i dati della cassa forense per quanto riguarda i neoavvocati e si scopre che i neoavvocati guadagnano 10.000 euro l'anno, quindi 800 euro al mese. Si guardano i dati dell'INPGI rispetto ai giovani giornalisti e si scopre che i giovani giornalisti portano a casa quando sono freelance circa 600 euro al mese, quindi si parla sicuramente di cifre molto molto basse. Questa è l'Italia, in Europa invece? In Europa c'è molto meno il pregiudizio rispetto al giovane, perché questi bassi stipendi non sono bassi solo perché sono bassi, perché l'Italia è un paese più tirchio, ma sono bassi anche proprio per una mentalità tipicamente italiana, che è quella che il giovane non ha diritti, deve fare la gavetta. Non è giusto dargli tutto e subito, mentre nel resto d'Europa e direi quasi del mondo ognuno viene valutato a prescindere dall'età che ha, in base a quello che sa fare, in base all'apporto che sa dare all'impresa per cui lavora. Sicuramente chi va in Francia piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che nei paesi del nord Europa, sicuramente ha delle prospettive di stipendio, non voglio dire doppie, ma che superano abbondantemente i 1000 euro al mese, arrivando a 1.500 a 2.000. Passiamo agli stage, alla condizione degli stagisti giovani in Italia. La condizione degli stagisti giovani in Italia è pessima, perché in tutta Europa l'Italia è uno dei paesi dove gli stagisti sono tutelati di meno. Oltre il 50% degli stage prevede proprio un rimborso spese pari a zero. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.repubblicadegliistagisti.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.